Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera affrontiamo un tema affascinante che è anche una sfida, però non da poco. Parliamo delle APEA, le aree produttive ecologicamente attrezzate. È un'entità che nasce giuridicamente 13 anni fa con la legge Bassanini, che si sta facendo largo con molta molta fatica. Parliamo evidentemente di quelle aree che siamo abituati a pensare come le zone industriali. Ce ne sono un po' in tutti i paesi italiani, solo che parliamo di aree industriali evolute in grado di costituire un presidio intanto a favore dell'ambiente e dell'efficienza energetica, ma anche un presidio i cui benefici si riflettono immediatamente sulle aziende sotto forma di servizi di maggiore competitività. Ne parliamo con Enrico Cancila, responsabile dell'unità di sviluppo sostenibile di Hervet, che è l'agenzia di sviluppo interna, per così dire, della regione Emilia-Romagna, che pochi giorni fa tra l'altro ha presentato proprio il risultato di una ricognizione, una sorta di mappatura delle APEA esistenti in Italia. Buonasera Cancila. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo a svelare l'arcano. Che cos'è una APEA e soprattutto a cosa serve? Arcano, hai detto bene, nel senso che è un tema assolutamente che nasce dalla Bassanini 13 anni fa, ma che è assolutamente nuovo in quanto ha innovazione. Il tema delle aree produttive ecologicamente attrezzate è un tema che tocca l'urbanistica fino ad arrivare all'attrazione d'impresa, passando da una maggiore sostenibilità ambientale di queste aree industriali. In cosa consiste? Qual è la sfida delle aree produttive ecologicamente attrezzate? Consentire una diminuzione dello sprawl industriale. Sprawl è una parola difficile, che vuol dire la diffusione di tante piccole aree industriali. Lo spalmamento vuol dire praticamente, una cosa del genere. Lo spalmare sul territorio tante piccole aree industriali difficilmente, da un lato mi viene da dire controllabili, ma soprattutto su cui è difficile investire in infrastrutture, per favorire invece aree industriali di maggior dimensione che però abbiano queste infrastrutture anche di sostenibilità ambientale, come possono essere per esempio impianti energetici di cogenerazione, oppure fotovoltaico sui parcheggi, oppure ancora impianti di depurazione delle acque comuni o raccolta di acque di prima pioggia. Allora è evidente che investendo in infrastrutture su aree importanti si crea una possibilità di diminuire da un lato le piccole aree poco strutturate, dall'altro di fare attrazione di impresa su queste, dicendo alle aziende: vieni qui da noi in un'area produttiva ecologicamente attrezzata perché ne avrai dei benefici in termini di strutture di servizi. Insomma, è il vecchio ragionamento per cui, insomma, l'unione fa la forza. C'è la possibilità di fare sinergia, di creare delle infrastrutture che su una singola azienda sarebbero dei pesi economici insostenibili, ma sparpagliati su 20 o 30 aziende invece sono elementi di competitività, no? Sì. Siamo i tre moschettieri, non è complicato da un certo punto di vista. Sì, ormai è complicato farlo. Diciamo che effettivamente la questione è creare in un sistema Italia contraddistinto da piccole e medie imprese sempre più un sistema. Sistema che può passare anche dalle aree produttive ecologicamente attrezzate come possibile semplificazione della vita di queste aziende, anche semplificazione, se vogliamo, amministrativa, perché se penso che magari un'autorizzazione passi dal consorzio che depura le acque e non da un'azienda, tolgo un adempimento importante all'azienda che gli comporta tempi. Magari un energy manager per tutti o una serie anche di questi, insomma, di questi vantaggi qua, un no? Un mobility manager comune. Per esempio, un acquisto comune di dispositivi di prevenzione individuali che devono essere presi per la sicurezza, garantendo prezzi inferiori. Certo, ecco, un altro aspetto che mi sembra molto interessante e che è già più avanzato è il fatto che è anche possibile pensare di mettere insieme delle aziende che utilizzino l'una gli scarti dell'altra, per esempio, no? Questo è un aspetto molto interessante che è sviluppato con il tema di parchi ecoindustriali e che ci accomuna un po' a quelli che sono gli esempi europei. Sicuramente uno degli elementi di forza dei parchi ecoindustriali è di cercare la cosiddetta chiusura dei cicli, con un riciclo di energia o di acqua o di materie scarti per un'azienda, materie prime per un'altra magari. No, certo. Questa è una sfida ancora più bella, però anche un po' difficile. Ancora più contesti. A lungo termine, poi, sicuramente, insomma, che però si collega bene con la logica dei distretti che a noi piace tanto qui in Italia. Su questo concordo, cioè dove c'è una specificità produttiva e quindi una filiera è più facile, da un lato la chiusura dei cicli, dall'altro l'attrazione di impresa. Non sempre però è così, la ricerca lo dimostra, in alcuni casi le aree industriali sono generiche. Ecco che allora diventa più difficile riuscire magari a far capire all'impresa un vantaggio, perché non c'è una filiera, un prodotto tipico da produrre, e quindi bisogna proprio far conoscere quali sono i vantaggi economici di queste aree strutturate in maniera dettagliata, oppure l'azienda non conosce i vantaggi. Di più, purtroppo, questo tema delle aree ecologicamente attrezzate è sviluppato a macchia di leopardo in Italia e di fatto non esistono ancora delle aree industriali che abbiano già investito talmente tanto in modo da dare vantaggi fortissimi alle aziende. È un po' un tema ancora in divenire, che ha delle grosse potenzialità, soprattutto adesso che si sta investendo molto sui temi energetici, per esempio, no? Non parlo ecco, perché poi l'impatto è forte proprio su quel versante lì. No, pensiamo a una centrale in cogenerazione. È una roba che ha senso se c'è un certo numero di utenze intorno, no? E lì c'è molta efficienza energetica. Assolutamente, tu mi insegni che meno sono le reti che di trasporto di energia, meno sono le perdite, più alta l'efficienza che si può sfruttare, ma anche il vantaggio economico per l'azienda che ci può essere in un costo inferiore dell'energia. Infatti. Va bene, allora noi vogliamo parlare anche di questo rapporto che è venuto fuori, non ne abbiamo assolutamente il tempo, ci tocca risentirci. Vabbè, quando vuoi. Allora grazie Enrico Cancila. Alla prossima. È tutto, appuntamento a lunedì, buon fine settimana da Maurizio Melis.